Bene, continuiamo con queste audio lezioni. Cercherò di essere più sintetico perché questa didattica a distanza dovrebbe anzi suggerire, anzi imporre semplificazioni e tagli nel programma. Ora dobbiamo parlare di Manzoni e di Leopardi, due colossi ovviamente, a cui si dovrebbe dedicare molto più tempo, ma con i nuovi programmi vengono sacrificati alla fine del quarto anno perché in quinta si deve cominciare con, si deve iniziare dall'Unità d'Italia, quindi quasi inevitabilmente bisogna procedere per sintesi, ellissi e tagli. Ecco, Manzoni e Leopardi, apparentemente del tutto antitetici, non solo apparentemente, c'è ovviamente una contrapposizione molto marcata fra il cattolicesimo tipico di Manzoni, per quanto un cattolicesimo liberale, non dogmatico, e invece l'ideologia di Leopardi, che sarebbe riduttivo definire esclusivamente illuministica o materialistica. Ci fu, come vedremo, un influsso del sinsismo settecentesco francese e del materialismo nel pensiero di Leopardi, ma non manca una certa ansia spirituale, insomma, una ricerca irrisolta del senso della vita anche in Leopardi. Sebbene Leopardi pervenga infine a una sorta di religione del nulla, una forma di nichilismo che peraltro non è essa stessa del tutto estranea al pensiero cristiano. Basti pensare a Blaise Pascal e alle sue riflessioni sull'identità di infini e rien, ecco, infinito e nulla. Ma di tutto ciò parleremo più dettagliatamente nei limiti di queste brevi comunicazioni. Ecco, parleremo più ampiamente fra, insomma, nelle prossime audiosintesi. Dunque, non mi soffermo sulla vita di Manzoni e nemmeno sui Promessi Sposi, con cui immagino vi abbiano già triturato gli zebedei al ginnasio. Romanzone dell'Ottocento, sostanzialmente trascurabile, si potrebbe quasi cassare, così come nel caso di Victor Hugo, insomma, non è che quei polpettoni, Les Misérables o Notre-Dame de Paris siano particolarmente interessanti. Sarebbe molto meglio soffermarsi sull'opera poetica di Victor Hugo, no? Sulle contemplations, l'art d'être grand-père e soprattutto la fin de Satan incompiuta. Ma purtroppo, non so perché, insomma, si continua a perdere tempo con quella cosa assolutamente insulsa che è il romanzo, con quella banalità che è la prosa, mentre casomai il discorso poetico è quello filosofico, il discorso in cui il linguaggio raggiunge il massimo grado di complessità, di densità, di ricchezza. Forse proprio per questo quasi nessuno legge poesia e filosofia, e E tutti leggono questi, a mio parere, insignificanti romanzi, ecco, no? Hegel diceva, il romanzo esprime la moderna epopea borghese, la realtà già ordinata a prosa, la prosa della vita reale, ma la realtà è abbastanza noiosa, insomma. Che cos'è fatta, insomma, di lavoro, famiglia, scuola, insomma. E allora, già rompere le scatole, la realtà, che bisogna già di rompersele due volte, leggendo anche questi romanzi, insomma, a meno che non abbiano un carattere così poetico, lirico, meditativo, Dostoevskij, Hermann Brock, Proust, Thomas Mann a tratti, ma allora il romanzo si innalza ai livelli, alle altezze della poesia e della filosofia, appunto. Semmai si potrebbe rileggere qualche paginetta, La madre di Cecilia, ad esempio, no? Pagina emblematica, che è un poema un prosa, si potrebbe dire, no? Una lirica in prosa più che una pagina di romanzo. Ne riparleremo soffermandoci sulla figura di Ermengarda, che è essa stessa, ecco, una figura sacrificale, cristologica in qualche misura. Un innocente che si immola, no? Come un agnello con un fondo sia classico che cristiano. Si potrebbe pensare ad Ippolito, no? Personaggio di Euripide, come anche a Cristo, insomma, la vittima innocente. Ad ogni modo, cerchiamo di andare con ordine. Noi tralasciamo completamente la produzione poetica anteriore alla conversione, non perché non sia interessante, si tratta comunque di componimenti che rientravano nella cosiddetta poetica neoclassica, con un fortissimo influsso di Vincenzo Monti, maestro, grande maestro, che torna sempre, anche se è stato rimosso, dimenticato. Anche il 5 maggio, come vedremo, risente della mascheroniana di Vincenzo Monti. Ma ecco, sì, la conversione di Manzoni, avvenuta secondo la leggenda, no? A Parigi, quando, dopo aver perso la moglie Enrichetta Blondel nella folla parigina, la ritrovò per caso in una chiesa e lì si sarebbe convertito, ecco. 1810 si convertì insieme alla moglie Enrichetta Blondel, che era di religione calvinista. Manzoni inizialmente aderiva a posizioni illuministiche di aperto agnosticismo, idee anche giacobine, il trionfo della libertà in terzine dantesche, è un componimento significativo della fase anteriore alla conversione, in cui vengono celebrati i valori giacobini, no? Liberté, égalité, fraternité, insomma. Manzoni poi ripudierà completamente tutta la, dopo la conversione, insomma, ripudierà tutta la produzione anteriore. Anche dopo la conversione, peraltro, rimane in Manzoni un fondo giansenistico. D'altra parte, il giansenismo è comunque una corrente che si sviluppa in seno al cattolicesimo, pur assorbendo questa componente predestinazionistica, che sembra tipica del protestantesimo, no? La la predestinazione, ma non è detto che ci sia questa contrapposizione così netta, in fin dei conti, anche nel pensiero di Sant'Agostino c'era una sfumatura predestinazionistica, e proprio Augustinus era il titolo della voluminosa opera di Cornelio Giansenio, che aveva dato origine al giansenismo. Predestinazionismo perché alcuni personaggi di Manzoni sembrano effettivamente destinati inesorabilmente al male, no? Ad esempio Don Rodrigo, tipico esempio, mentre l'innominato, insomma, no? Si converte, no? Cioè, la luce della grazia divina, ma anche la volontà di accoglierla. Fra Cristoforo invece è predestinato ad un cattolicesimo eroico, no? Contrapposto a quello invece opportunistico e vile di Don Abbondio. Vabbè, comunque. Opera decisamente influenzata dalla conversione sono gli inni sacri progettati, ma portati a compimento solo in parte. Manzoni progettò di scrivere un inno per ciascuna delle principali festività cristiane, in realtà ne scrisse soltanto alcuni. Non è disprezzabile affatto la poesia degli inni sacri, anche se forse un po' lontana dalla sensibilità moderna che ha perso questa spiritualità, ha per lo più perso questa spiritualità così cristiana, cattolica, anzi, così intensa, il lettore di oggi sente più vicino Leopardi proprio perché insomma, gli inni sacri fanno pensare un po' a qualcosa di bigotto, hanno un po' questo odore di incenso, di canonica, di sagrestia. Ad ogni modo, sul piano stilistico sono interessanti perché Manzoni prende un metro, cioè quello dell'ode, metro che era stato per lo più usato per argomenti galanti, un po' salottieri, un po', se vogliamo, a volte anche superficiali, insomma, poesia d'occasione, non sempre, perché già Parini aveva usato la forma della ode per trattare argomenti seri, impegnati, filosofici, morali. Anche Vincenzo Monti, ad esempio, aveva usato l'ode per la forma poetica della ode per celebrare, ad esempio, i progressi della modernità, ma lo stesso fa anche Parini. Insomma. Ecco, Manzoni la impiega per scrivere questi inni sacri che in pari tempo si ispirano alla tradizione della innografia cristiana, paleocristiana in latino e in particolare i grandi inni di Sant'Ambrogio, a cui Manzoni, essendo milanese, lombardo, insomma, si sentiva particolarmente legato. Noi abbiamo accennato a questa innografia cristiana parlando di Dante. Dante spesso cita questi inni gregoriani, inni di Venanzio Fortunato, di Ambrogio, eccetera, inni che hanno spesso una scansione, un ritmo trocaico, che Manzoni ricalca con l'uso dell'ottonario, ad esempio, del settenario, dell'ottonario, ma per lo più versi brevi, ecco, versi, cioè misure versali inferiori, più brevi dell'endecasillabo. No? uso frequente di forme sdrucciole, qual masso che dal vertice di lunga erta montana, abbandonato all'impeto di romorosa frana. Il Natale. Ecco, strofe, versi brevi, strofe brevi con rime frequenti. Quindi una sorta di fusione fra la forma dell'ode di ascendenza neoclassica e la scansione per lo più trocaica degli inni, medio-latini. Ecco, lo stile degli inni sacri fu, se vogliamo, innovativo. Un critico all'epoca parlò di oscura prosa rimata. Insomma, si trattava di una poesia senza immagini, una poesia sliricata. Lo stesso Manzoni parlò di uno sliricamento, insomma, una volontà di sliricarsi, cioè una poesia non più lirica, ma non più lirica come era invece nella tradizione neoclassica, ma al contrario, densa di concetti e di insegnamenti, insomma, soprattutto teologici, religiosi. La celebre definizione manzoniana dell'arte, no? L'arte che deve avere l'utile come fine, il vero per soggetto, l'interessante per mezzo. Insomma, una concezione che si potrebbe definire didascalica, se vogliamo, cioè la funzione della letteratura, quella di trasmettere un insegnamento, nella fattispecie morale, teologico, religioso. Ma noi non leggiamo gli inni sacri, leggiamo invece il 5 maggio, che non fa parte degli inni sacri. Fra gli inni sacri, almeno la Pentecoste potrebbe essere ricordata, una grande esaltazione della storia della Chiesa, no? Che viene vista anche per influsso del Bossuet, Bologna, Otranto, Salerno, Udine, Empoli, Torino, grande predicatore, oratore sacro del 600. Ecco, la storia viene vista come un disegno provvidenziale, guidato dalla mano di Dio. Qui ci sono varie suggestioni, dalla pronoia degli stoici, no? Il concetto di provvidenza, è interessante notare, si trovava già negli stoici, no? La pronoia stoica, anche Seneca, no? Seneca, De Constantia Sapientis. E anche in un'altra opera di cui adesso mi sfugge il titolo, insomma, Seneca dice la storia, come le vicende umane sono come supervisionate, diciamo, dallo sguardo di Dio, dalla mano di Dio. Dio è come un padre severo che mette alla prova maggiormente proprio i figli che più ama. Al che uno potrebbe anche dire, ma pensa se li odiasse, no? Come c'era quel povero lebbroso che si lamentava per le piaghe ardenti, doloranti, no? Arrivò Madre Teresa di Calcutta e disse, sono i baci di Dio, no? Quelle piaghe sono i baci di Dio. E il lebbroso giustamente rispose, beh, digli di smettere di baciarmi perché io ne faccio anche a meno. Vabbè, scusate la battutina. L'aneddoto così blasfemo, ma non è una barzelletta, insomma, lo racconta proprio lei. Quindi, ad ogni modo, no, pagina 270, beh, sì, buonanotte, io sto facendo riferimento a un libro diverso, a qui sotto un libro diverso da quello che avete voi. Comunque, il 5 maggio, che immagino abbiate già letto, insomma, comunque, piuttosto lontano dal gusto di oggi, insomma. Ad ogni modo, ecco, non fa parte degli inni sacri, ma è come se fosse un inno sacro anche questo, perché sia la visione teologica, sia la visione provvidenzialistica della storia, sia lo stile così sintetico, così denso, concettoso, ecco, no? Senza tanta retorica, senza tanta enfasi, diciamo, diciamo, accomuna questo testo agli inni sacri. E la stessa cosa si potrebbe dire del primo, anzi del secondo coro della Delchi, sparsa le trecce morbide sull'affannoso petto celebre, di cui leggeremo, anzi che leggeremo quasi per intero, il 5 maggio. Testo scritto rapidamente con un lavoro febbrile di 2 giorni alla notizia della morte di Napoleone. Peraltro, ecco, non è esatto, non è corretto, non è giusto dire che Manzoni abbia copiato, ma che ho caricato un piccolo file, un paio di paginette, in cui si trovano due testi, il primo di George Byron, il grande poeta romantico inglese, il secondo di Vincenzo Monti, i due autori apparentemente, e non solo apparentemente, così lontani, perché no, da una parte la tipica passionalità romantica, sebbene nella poesia di Byron ci sia una componente intellettuale, direi quasi filosofica, che è stata spesso sottovalutata. Leggendo Byron c'è anche la riflessione, l'ironia, anche, insomma, non è il romantico così sognatore, lacrimoso, lamentoso, o così enfatico, ingenuo che si potrebbe immaginare. Dall'altra parte la mascheroniana di Vincenzo Monti. Allora, dunque, devo ripescare il file che ho messo. Aspetta. Comunque, si tratta di due testi molto diversi l'uno dall'altro, quello del Byron e quello di Vincenzo Monti. È un aspetto, a dire il vero, poco noto, poco studiato questo, di questi due antecedenti. La mascheroniana concepita intorno al 1800, il file lo trovate in didattica, concepita intorno al 1800, dedicata alla memoria del poeta e matematico Lorenzo Mascheroni. Nella mascheroniana c'è una esaltazione di Napoleone. Vincenzo Monti fu giacobino quando al potere c'erano i giacobini, poi vabbè, con il tipico voltafaccia diventò poi austriacante, no? Scrivendo Il ritorno di Astria, ecco, al momento della restaurazione, ma cioè del ritorno degli austriaci. E allora, ecco, invece l'ode a Napoleone, Ode to Napoleon, si pronuncerà in inglese, penso, 1814, si riferisce al momento della sconfitta, cioè subito dopo l'editto di Fontainebleau e immediatamente prima dell'esilio all'isola d'Elba. L'ode a Napoleone di Byron non è un elogio di Napoleone, al contrario, è una derisione di Napoleone sconfitto. No. E qui c'è anche il patriottismo, no, di Byron, che si batteva per la libertà dei popoli, insomma, anche per la libertà della Grecia, no? Si batté, ma ecco, tuttavia anche nel testo di Byron c'è un aspetto che trova riscontro in quello di Manzoni. Cioè, Napoleone viene colto non nel momento del trionfo, nel momento della gloria, ma al contrario, nel momento, beh, qui nel caso di Manzoni, della morte, dopo entrambi gli esili, ovviamente, l'esilio Manzoni sono riferimenti all'esilio all'Elba, all'esilio a Santina, due volte sulla polvere, due volte sull'altar, ma dall'altare alla polvere, no? Espressione che è rimasta poi proverbiale. Quindi non c'è in Manzoni l'ottica così negativa, così anzi derisoria che si trova in Byron, ma questo tema della caduta, no? Della sconfitta dell'ombra dell'abbandono, della solitudine, dell'isolamento che seguono alla gloria, alla vittoria, al trionfo. Ecco, si trova sia in Byron che in Manzoni. E fra l'altro, se guardate qui nel testo di Byron, Tisdan, questo attacco così è finita, no? Tisdan, cioè basta. Il celebre Eifu di Manzoni deriva alla lettera proprio dall'attacco di Byron, quindi, no? Uno degli incipit più celebri della poesia italiana. Manzoni lo rubò proprio a Byron. Tisdan, but yesterday a king, and armed with kings to strive, eccetera. Beh, ho messo qui la traduzione, vi risparmio. La mia pronuncia inglese, che non è proprio oxfordiana, ma no, dice questo l'uomo dai mille troni che disseminava la nostra terra di ossa nemiche, e può egli sopravvivere così dalla caduta di colui chiamato fallacemente la stella del mattino? Nessun uomo, nessun nemico cadde così dall'alto. E Manzoni dice: più superba altezza al disonor del Golgota giammai non si chinò. Non dico che tutta lode di Manzoni insomma derivi da scopiazzature di quella di Byron, ma insomma non esisterebbe il 5 maggio senza questi due antecedenti. Anzi, l'idea di scrivere il 5 maggio, secondo un aneddoto, gli venne proprio la notizia della morte di Napoleone, dopo aver riletto alcuni versi di Vincenzo Monti, credo proprio questi della Mascheroniana, allora gli venne l'idea di scrivere qualcosa anche lui. Beh, un po' come i compositori, i musicisti, o i songwriters, no? Quando insomma, magari sentono un motivetto da qualche parte, una sequenza di accordi, e da quello hanno l'idea di scrivere qualcosa anche loro. Ma non è detto che si tratti di un plagio, ma può essere solo così, uno spunto, un'ispirazione. Un po' come dicono gli studenti quando uno dice: ma hai fatto un copia e incolla? Ma no, beh, mi sono ispirato. Insomma. Vabbè, comunque, il trionfo e la vanità, l'ebbrezza del combattimento, la tremenda voce della vittoria, per te sono soffio vitale, la spada, lo scettro, un dominio imposto irresistibilmente dovunque la fama arrivasse, tutto soffocato e spento. Spirito tenebroso, quale deve essere il supplizio della tua memoria? Ebbè, se prendete la strofa qui che dice: tutto provò la gloria maggior dopo il periglio, la fuga, la vittoria, regge il tristo esilio, due volte nella polvere, due volte sull'altare. C'è anche la memoria, dov'è che dice il turbine delle memorie scise, insomma cercò di, ecco, tal su quel, come sul capo al naufrago l'onda si avvolve e pesa, tal su quell'alma il cumulo delle memorie scise. Quindi cioè, praticamente, insomma, c'era anche in Virgilio e poi in Dante, no? L'idea di insomma, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, no? Il desolatore desolato, il vincitore sconfitto, l'arbitro dell'altrui destino, supplice per la sua sorte, arbiter, no? L'arbitro, due secoli a lui sommessi vennero come aspettando il fatto, dice, egli, dice, arbitro si assise in mezzo a loro. Pesata sulla bilancia la cenere dell'eroe pesa quanto volgare argilla, immagine che c'era, che si trovava già in Giovenale con riferimento ad Annibale, no? Prova a pesare Annibale ora che è solo cenere, dice, e dimmi quanto la stadira segnerà, cioè, no, ridotto alla cenere. Dopo la morte, insomma, anche un grande eroe a che cosa si riduce? Pulvis et umbra. La cenere dell'eroe pesa quanto volgare argilla. Weighed in the balance, hero dust is vile as vulgar clay. No. Thy scales, mortality, are just to all that pass away. Dov'è? Dice la gloria che passò che è soltanto cenere. Dov'è finita? Ecco, dov'è silenzio e tenebre la gloria che passò, no? Nel testo di Manzoni. Qui c'è il paragone con Tamerlano. A meno che come quelli di Babilonia la ragione non sia fuggita insieme col suo scettro, la vita non potrà contenere troppo a lungo uno spirito il cui volo si estese così largamente, così lungamente obbedito. E beh, qui trovate, no? Stette la spoglia in memore orba di tanto spiro, ma anche dice l'anima che soffre pensando al regno, serve pensando al regno, l'ansia di un cuor che indocile serve pensando al regno. Non sono citazioni letterali, ma di fatto tutti i motivi, credo di poter dire che tutti i motivi, tranne forse che Manzoni aggiunge la componente teologica, cioè una componente cattolica, cristiana, cristiano-cattolica che in Byron non non c'è, ecco, Byron si limita a sottolineare la fallacia, la precarietà delle glorie terrene, Manzoni invece aggiunge la prospettiva teologica, no? Cioè, quest'uomo che era stato strumento quasi nelle mani di Dio, ho visto l'imperatore, questa anima del mondo, come scriveva, no? Il giovane Hegel, se non ricordo male, no? Al momento della morte si ricongiunge con il creatore, no? Cioè questo divenire storico immanente che è comunque condizionato da un ordine superiore e con la morte dell'eroe, con l'ingresso del tempo nell'eternità, ecco, si ricongiunge, i due piani si ricongiungono. Ecco, nel caso della Mascheroniana invece che contiene un elogio di Napoleone, quindi l'esatto contrario rispetto a Byron, ma no, vedete, ehi, la salute della patria volle, poté ciò che volle, e al suo valore, citazione dantesca, no? Volsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e al suo valore fu norma la virtù che in cor gli bolle, fu di pietoso cittadin dovere, fu carità di patria, a cui già morte 5 tiranni avean le forze in te. Fine agli odi promise, di ritorte fu catenata la discordia e tutte della rabbia civile chiuse le porte. Beh, qui sì, ecco, forse l'influsso di Byron è più diretto, più percettibile, insomma, no? Però dice, i deliri fu queti e senza velo, secura in trono la ragion s'assise. E il s'assise, dov'è? Ed arbitro si assise in mezzo a loro, no? Vedete? Qui c'è la fusione, se vogliamo, un tipico esempio di contaminatio, no? Fra due modelli così diversi, così eterogenei. Gridò guerra per tutto il franco cielo, un fremere, un tuonare d'armi s'intese che al nemico portò per l'ossa il gelo. Tutto provò la gloria maggior dopo il periglio. La fuga e la vittoria regge il tristo esilio. La procellosa e trepida gioia di un gran disegno, se non sbaglio, ecco, vedete, c'è anche, c'è proprio l'aggettivo procellosa, che è un aggettivo molto prezioso, insomma, no? Latineggiante, no? Procella, cioè, per dire tempestoso, no? Procelloso. No? E allora dice, grida guerra per tutto il franco cielo, un fremere, un tuonare d'armi si intese, che il nemico portò per l'ossa il gelo. Invocò la vittoria ed ella scese procellosa sull'Istro e l'arrogante tedesco al piede un nuovo Fabio, cioè appunto Napoleone, stese. Beh, dice, sì, ecco, quindi forse insomma, ecco, Byron rappresenta un antecedente più diretto. Byron Manzoni leggeva con tutta probabilità in una versione francese, ma su questo duplice dettaglio voglio fare uno studio un po' più dettagliato, forse in futuro. Lo leggeranno in tanti, proprio, forse anche in 10, ecco, in 15 potrebbero leggerlo. Adesso devo andare un attimo qua a sistemare il tè. Ecco qua, insomma, ei fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro, così per cosa attonita la terra al nunzio sta. Insomma, mettersi a fare la parafrasi letterale, quella la trovate già nelle note, insomma, comunque, ei fu, questa espressione così rapida, concisa, due monosillabi, punto fermo, visse, nel senso, è morto, tis done, come dice Byron, non appena, o meglio, non è una similitudine, come immobile, dopo aver esalato il respiro mortale, rimase il cadavere ormai privo di memoria, beh, insomma, una spoglia in memoria, orba di tanto spiro, già privata di un respiro così potente, di una così grande anima, così la terra rimane. La notizia percossa, cioè, colpita, sgomenta, attonita, sbalordita, turbata, esterrefatta, percossa, attonita, due parole che anche come suono danno un po' questa impressione di grande improvviso sgomento, muta pensando all'ultima, quindi pensando silenziosa all'ultima ora dell'uomo fatale, questo qui l'aggettivo fatale. Usato proprio in accezione latina, cioè uomo fatale, vuol dire uomo che agiva guidato dal fato, che era come uno strumento nelle mani del fato. Ne sa quando una simile orma di pia mortale la sua cruenta polvere a calpestare verrà, cioè non, e non sa quando simile, qui c'è anche una ipallage, perché simile. No. Insomma, quando diciamo, l'impronta di un uomo paragonabile a questo grande eroe, ecco, verrà di nuovo a calpestare la sua polvere cruenta, cioè insanguinata, sarebbe, no? Aggettivo, cioè, questo è un latinismo molto marcato, la sua cruenta polvere, calpestare. Cruenta nel senso di cosparsa di sangue, perché la storia è tutta piena di sangue, di morte, di guerre, di sacrificio. Manzoni, romantico per eccellenza, ma c'è un fondo autenticamente classico in Manzoni. Manzoni, grande amante di Virgilio, grande Anche nel suo stile ci sono molti latinismi e anche inversioni sintattiche, come è tipico del resto della lingua poetica italiana, ma anche figure retoriche, artifici retorici come l'accusativo alla greca, non so, sparsa le trecce morbide sull'affannoso petto, anche latinismi molto, molto marcati, no? La sua cruenta, poi la procellusa e trepida, quindi un fondo classico, non classicista ovviamente, ma classico si trova anche in Manzoni, da forse un aspetto meno noto di altri. Manzoni significativamente, poco prima di morire, proprio poche ore credo prima di morire, scrisse degli esametri latini, no? Quindi è singolare, no? Una sorta di testamento spirituale in esametri latini, come gli uccelli che stanno incappucciati e a cui viene impedito di vedere la luce perché devono mutare le piume, così anch'io, come questi uccelli, no, muterò le piume, nel senso che risorgerò, no, dopo la morte. C'è questa commovente, singolare e commovente poesia in esametri latini, che io sappia l'unico componimento latino di Manzoni che ci sia rimasto. Vabbè. Comunque, lui folgorante in scioglio vide il mio genio e tacque, quando con vece assidua cadde risorse giacque, di mille voci al solito mista la sua non è. Il mio genio ovviamente è soggetto, quindi il mio genio, cioè la mia ispirazione poetica, lo vide sfolgorante sul trono nel momento della gloria, e allora tacque, quando con continui rivolgimenti, con vice assidua, altro latinismo molto forte, con vice assidua vuol dire con continui mutamenti, continui rovesciamenti di fronte, si direbbe, no? Cadde risorse e giacque, cioè le alterne vicende di Napoleone sconfitto e poi vittorioso, sconfitto vittorioso. Di mille vo voci al solito, mister la sua non ha, cioè non ha mescolato la propria voce al suono di mille voci, cioè vergine di servo encomio e di codardo oltraggio, ecco. Quindi espressione rimasta celebre, cioè vuol dire la mia ispirazione poetica, il mio ingegno poetico è immune, diciamo, esente dalla colpa sia di un'offesa vile sia di un elogio servile. Sorge il commosso al subito, sparir di tanto raggio. Quindi ora commosso nel senso latino proprio di turbato, sgomento, quindi ora colpito da questa notizia, diciamo, no? Sorge. Il soggetto è sempre il mio genio, cioè la mia indole poetica, il mio ingegno poetico, al subito sparir di tanto raggio, cioè all'improvviso, qui subito è aggettivo, al subito sparir di tanto raggio vuol dire all'improvviso venir meno, svanire di una luce così intensa. E scioglie all'urna un cantico che forse non morrà. Cioè, rivolge, diciamo, all'urna, rivolge insomma alla tomba, ma qui il latino solvere è molto molto più suggestivo, perché dà come l'idea di un nodo che viene sciolto, cioè di una voce poetica a cui viene dato libero sfogo, insomma, un sentimento a cui viene dato libero corso. E che scioglie all'urna un cantico che forse non morrà. Ecco, Manzoni dice questo canto forse non morirà, cioè forse resterà nella memoria dei posteri, e aveva ragione, insomma, era consapevole di stare scrivendo un capolavoro. Dice, no, scioglie all'urna un cantico che forse non morrà, e ha ragione, perché noi siamo ancora qui a leggerlo. Dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanar al Reno, di quel securo il fulmine tenea dietro al balino. scoppiò da Scilla al Tana e da Lungo all'altro mar. Questa parte forse poeticamente un po' meno suggestiva, comunque qui si indicano con delle perifrasi geografiche, o meglio non perifrasi, ma metonimie, no, si indica rapidamente in modo molto conciso la vastità dei domini napoleonici, no? Cioè dalle Alpi alle Pirenee, dalla Spagna fino alla Germania, no? Dal Manzanar al Re, di quel sicuro il fulmine, allusione anche alla campagna in Egitto, no? Dice, di quel sicuro il fulmine tenera dietro al baleno, cioè di quell'eroe così risoluto il fulmine seguiva subito il lampo, cioè in parole povere, quando concepiva un disegno, un progetto, lo attuava anche rapidamente. Scoppiò da Scilla al Tanai, dall'uno all'altro mare. Il Tanai è il Don, il fiume Don, quindi allusione alla campagna di Russia. Fu vera gloria, ai posteri l'ardua sentenza. Noi chiniamo la fronte al massimo fattor che volle in lui del creatore suo spirito più vasta orma stamparsi. Fu vera gloria, ai posteri l'ardua sentenza. Questo è rimasto celebre, rimasto proverbiale, no? Questa espressione è rimasta proverbiale, ai posteri l'ardua sentenza. Noi, notate questa forma anomala, nui, con la U, per fare rima con lui, chiniamo la fronte al massimo fattore, cioè al sommo creatore, a Dio, che volle imprimere in lui una orma più vasta, un'impronta più significativa, insomma, del suo spirito creatore. Qui l'eroe viene visto come uno strumento nelle mani di Dio, insomma, no? Cioè anche, ecco, sebbene gli ideali napoleonici non fossero religiosi, perché Napoleone era giacobino, illuminista, insomma, si fece incoronare dal Papa, incoronare imperatore dal Papa, ma non era certo un cattolico fervente, ma ecco, ciò nonostante Manzoni vede comunque nel disegno napoleonico anche l'impronta di una volontà sovrumana, di una volontà divina, la procellosa e trepida gioia di un gran disegno, l'ansia di un cuor che indocile serve pensando al re, la tempestosa e trepidante gioia di un grande disegno, l'ansia di un cuore che serve indocile, cioè irrequieto, pensando al regno, pensando al dominio. E il giunge, cioè lo raggiunge, qui giunge usato transitivamente, e tiene un premio che era follia sperare, quindi, e ottiene un premio che era folle anche solo sperare. Tutto gli provò la gloria maggior dopo il periglio, la fuga, la vittoria, la reggia e il tristo esilio, due volte nella polvere, due volte sull'altare. Vabbè, insomma, allusione alle vicissitudini di Napoleone, per la precisione, l'umiliazione della fuga dopo la ritirata russa dopo Lipsia e Waterloo, l'estasi della vittoria, la pienezza del potere, cioè la reggia, la tristezza dell'esilio, prima quello all'isola d'Elba, poi quello a Santelena, due volte nella polvere, due volte sull'altare, cioè due volte nella polvere dopo Lipsia e dopo Waterloo, due volte sull'altare, cioè nel periodo del primo impero e in quello dei 100 giorni. Vabbè. Io stesso farei fatica a ricordare tutta questa pappardella se non avessi la nota qua sotto, ma insomma qui si allude praticamente, insomma, alti e bassi, insomma, nella vita un po' di tutti, beh, insomma, di qualcuno più bassi che alti, per altri invece al contrario. Napoleone, insomma, ne combinò di cotte di crude, e vabbè. Allora dice, ecco, qui viene una parte interessante. E si nomò, quindi egli impose il proprio nome, si affermò, diciamo, lasciò un segno. Ecco, 2 secoli, l'un contro l'altro armato, sommessi a lui si volsero come aspettando il fato. E gli fe silenzio ed arbitro, si assise in mezzo a loro. Dice, ecco, 2 secoli, l'un contro l'altro armato, cioè il 700 razionalista e illuminista, l'800 prevalentemente romantico e sentimentale. Insomma, in realtà non sono due secoli l'un contro l'altro armato, perché esiste anche il cosiddetto preromanticismo, cioè esiste una continuità fra l'uno e l'altra sensibilità. Basti pensare a Rousseau al fenomeno dell'ossianismo o all'influsso che Vincenzo Monti esercitò sui leopardi, come abbiamo già visto, insomma. Quindi, ma questa visione del 700 illuminista, razionalista e dell'800 romantico, dal punto di vista storico, forse furono effettivamente due periodi contrapposti, perché il grande risveglio delle idee patriottiche della patria, le tradizioni storiche delle singole nazioni, ecco, si afferma proprio nell'Ottocento, ma in fin dei conti il concetto moderno di nazione prende forma, si precisa, insomma, proprio nel Settecento. Quindi un adarme di lingua, d'altare, di memorie, di sangue e di cor, come dice proprio Manzoni, no? La nazione deve essere così. Un adarme di lingua, d'altare, di memorie, di sangue e di cor. Eccoci, insomma. E i fa silenzio ed arbitro, si assise in mezzo a loro. Ecco, vedete, praticamente Napoleone, come un grande decisore, eccoci, colloca simbolicamente fra i due secoli e impone il silenzio e pronuncia il proprio giudizio. E sparve e di nell'ozio chiuse in sì breve sponda, segno di immensa invidia, di pietà profonda, di inestinguibile odio, di indomato amor. Qui si allude all'esilio, no? Dice, scomparve, andò in esilio. E nell'ozio racchiuse i propri giorni in uno spazio, in un ambito così breve, fatto segno, cioè oggetto di immensa invidia, di profonda pietà, di inestinguibile odio e di amore indomabile, indomito. Vedete queste antitesi così forti, no? Invidia, pietà, odio, amore, no? Prima il chiasmo, immensa invidia, pietà profonda, poi parallelismo, inestinguibile odio, indomato amore. Come sul capo al naufrago l'onda s'avvolve e pesa, l'onda su cui del misero alta pur dianzi e tesa, scorrea la vista a scernere prode remote invan, tal su quell'alma il cumulo delle memorie scese, o quante volte ai posteri narrar se stesso imprese, e sulle eterne pagine cadde la stanca man. Dice, come l'onda. Qui c'è una similitudine davvero elaborata, per molti aspetti geniale, perché molto originale. Manzoni dice, no? Come sul capo del naufrago si abbatte e crava l'onda del mare, su cui precedentemente lo sguardo dello sventurato, alto e proteso, scorreva per scorgere invano, per cercare di scorgere invano prode lontane, cioè rive lontane, no? Cioè, come la distesa del mare si abbatte sul capo del naufrago, quelle distese marine su cui prima il suo sguardo, lo sguardo del navigante, spaziava cercando lontane rive su cui approdare, così allo stesso modo. Questa è una similitudine anche come struttura, come impostazione, molto, molto classicheggiante, proprio di struttura, di configurazione, no? Virgiliana, omerica. No? Analogamente, su quell'anima discese, si abbatté il cumulo delle memorie, cioè l'insieme delle memorie, dei ricordi. Dice, quante volte iniziò a narrare se stesso, cioè a narrare la propria vita ai posteri, e sulle pagine eterne cadde la mano stanca, cioè, no, più volte cercò di scrivere la propria autobiografia. In effetti c'è rimasta una ci sono rimasti i diari e l'abbozzo di autobiografia di Napoleone, ma dice, la mano cadde stanca sulle eterne pagine, eterne pagine, perché eterne, perché appunto, gli eventi così importanti, così emblematici della vita di Napoleone rientravano come nel disegno dell'eternità. O quante volte al tacito morire d'un giorno inerte, chinati rai fulminei, le braccia al sen conserte, stette, e dei dì che furono l'assalse e il sovvenir, dice. Oh, quante volte al silenzioso morire, al silenzioso tramonto di un giorno inerte, cioè di un giorno privo di azione, chinati i raggi, come qui si intende, gli occhi, cioè abbassato lo sguardo, fulmineo, cioè così, i rai fulminei, lo sguardo fulmineo dell'uomo d'azione che subito intuisce cosa deve fare, conserte le braccia al seno, cioè unite, congiunte le braccia sul petto, rimase fermo e lo assalì il ricordo dei giorni che furono. E ripensò le mobili tende, i percossi valli, il lampo dei manipoli, l'onda dei cavalli, e il concitato imperio e il celere ubbidirono. Dice, e ripensò le mobili tende, cioè quelle degli accampamenti, e le valli colpite dalle cannonate, e il lampo dei manipoli, cioè dei gruppi di soldati, l'ondata dei cavalli, il comando concitato, agitato, e il celere ubbidire, cioè il pronto, il solerte obbedire dei soldati. Ai forse a tanto strazio cadde lo spirito anelo e disperò, ma valida venne una manda al cielo, e in più spirabile aere, pietosa il trasportò, dice. Ah, forse ad un dolore così grande cadde lo spirito anelante, affannato, e perse ogni speranza, ma forte, valida, venne dal cielo una mano, cioè la mano di Dio, e lo trasportò pietoso in un'aria più respirabile e l'avviò per i floridi sentieri, cioè per i fioriti sentieri della speranza, ai campi eterni. Vedete ancora le eterne pagine qui, i campi eterni. È un'immagine classica più che cristiana, mi fa pensare ai campi Elisi, cioè il paradiso viene evidentemente paragonato ai campi Elisi, no? Virgiliani. Al premio che i desideri avanza, cioè qui avanza, verbo transitivo, cioè a quel premio che supera tutti i desideri umani, dove la gloria che passò non è altro che silenzio e tenebre. Bella immortal, benefica fede ai trionfi avvezza, dice, bella immortale, benefica fede abituata ai trionfi, scrivi, registra anche questo trionfo, rallegrati, perché diciamo, non si chinò mai al disonore del Golgota, cioè al sacrificio di Cristo, al mistero del sacrificio cristiano, non si inchinò mai una altezza più solenne, più elevata, più imponente. Ecco, il disonore del Golgota, questa espressione venne considerata scandalosa, suscitò forti contestazioni perché no, sembrava irriverente, molto irriverente parlare di disonore a proposito della morte di Cristo. In realtà, disonore del Golgota è un'espressione che ricalca l'idea di opprobr della croix. Opprobrium crucis, scandalum crucis, cioè to scandalon tu stauru, lo scandalo della croce, cioè il paradosso, insomma, di un Dio che si fa uomo, che soffre, muore, viene umiliato, no? Lo scandalo della croce. No. Dice, ecco, tu dalle stanche ceneri sperdi ogni ria parola, cioè tu, o fede, disperdi ogni parola malvagia dalle ceneri ormai stremate del defunto. Il Dio che atterra e suscita, che affanna e che consola, queste sono antitesi, cioè il Dio che abbatte e riconforta, che inflige sofferenze, ma nello stesso tempo dà consolazione, posò accanto a lui sulla deserta coltrice, altro latinismo molto forte, cioè sul giaciglio abbandonato da tutti, la deserta coltrice, posò accanto a lui, cioè la fede lo confortò. Nel momento della sofferenza. Allora, passiamo alla Adelchi, dunque la tragedia Adelchi, scritta più che altro per i lettori, ecco, non tanto per la rappresentazione teatrale. È stata rappresentata raramente. Lo stesso Manzoni scrisse che non era una tragedia concepita per essere rappresentata, intendendo di scrivere per lettori e non altro. Ecco, no? Quindi, ecco la tragedia Adelchi, ispirata alla storia longobardica in Italia. C'è anche un interessante saggio storico di Manzoni, discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia. No, si riferisce alle vicende storiche, vicende reali, perché per Manzoni c'era il vero storico, ma anche il vero poetico. Il poeta doveva sì rappresentare il vero storico, cioè ispirarsi a dei fatti reali, ma doveva raggiungere anche il vero poetico, cioè cogliere il significato profondo, il significato nascosto dei fatti, rappresentando ad esempio i sentimenti, i valori, le emozioni, il mondo interiore dei personaggi, quello che i documenti storici difficilmente registrano. E, ecco, praticamente Ermengarda, sorella di Adelchi, figlia del re Desiderio, re dei Longobardi, era promessa sposa di Carlo Magno, il quale però la ripudia per ragioni politiche, perché cioè per fare un favore, per far contento il Papa e per restaurare il potere imperiale sull'Italia. Per questo volta faccia, insomma, la povera Ermengarda muore di dolore in un convento in mezzo alle monache. Ci sono due rappresentazioni, fra le varie rappresentazioni teatrali ce ne sono due, una è rappresentazione di teatro filmato, insomma, per la televisione, o meglio la prima, insomma, teatro filmato per la televisione, la seconda è uno spettacolo teatrale che fu comunque anche filmato e mandato in onda, da una parte la Adelchi di Orazio Costa e dall'altra l'Adelchi di Carmelo Bene, Adelchi in forma di concerto, due rappresentazioni decisamente antitetiche. Orazio Costa era un grande regista teatrale, ma anche teorico della rappresentazione. E praticamente Orazio Costa aveva una concezione sacrale, una concezione sacerdotale del ruolo dell'attore, insomma, avrebbe addirittura voluto imporre il voto di castità agli attori, perché gli attori teatrali dovevano essere come sacerdoti che officiavano un rito. Quindi perfetto per l'Adelchi che ha questa dimensione rituale, un tipico esempio di tragedia cristiana, insomma, fonde un po' l'idea alcuni elementi della tragedia greca, ad esempio l'idea di un destino superiore, l'idea della vittima innocente, Adelchi ed Ermengarda, che sono un po' come capri espiatori, come vittime sacrificali, sono tragoi proprio. E la dimensione del dramma sacro, dell'atto sacramentale, del mistero, o quasi della sacra rappresentazione, perché questi personaggi sono figure cristologiche, in qualche modo Ermengarda, vittima innocente, rivive in sé la condizione, il sacrificio di Cristo, della vittima innocente. Allora, sparsa le trecce morbide sull'affannoso petto, questo è il secondo coro della Delchi, la povera Ermengarda che ormai sta. Ah no, dicevo, da una parte quindi la rappresentazione di Orazio Costa, che è così religiosamente, è il caso di dirlo, fedele al testo, è così caratterizzata da una ritualità così pacata, placida e solenne, liturgica direi, no? Dall'altro lato invece la rappresentazione di, o meglio l'interpretazione di Carmelo Bene che di fatto interpreta il testo, le parole del testo letterario come se fossero musica, come se fossero un brano musicale, realizza come se fosse una partitura, uno spartito da eseguire con la propria voce e di fatto nell'interpretazione di Carmelo Bene le parole non si sentono, insomma non si distinguono nemmeno. Anche avendo letto, anche conoscendo a memoria alcune parti del testo, non si riescono a riconoscere facilmente nella dizione di Carmelo Bene, che è volutamente straniante, anche distorta con l'uso della tecnologia, con l'uso dell'amplificazione che Carmelo Bene usava in modo sapiente, con l'uso anche degli strumenti, ad esempio c'è un percussionista, cioè, l'uso delle luci che rinvia al teatro espressionista, no? Questi riflettori che sottolineano gli stati d'animo dell'interprete, insomma, non ha quasi più nulla a che vedere con il testo originale di Manzoni, ma ha una grande forza innovatrice, sperimentale, d'avanguardia. Anche il grande Vittorio Gassman interpretò la Delchi a teatro, ma che io sappia non è rimasta nessuna immagine e nessuna registrazione purtroppo di quella memorabile rappresentazione. Rappresentare la Delchi significa sottoporsi ad una prova davvero proibitiva, proprio perché siamo ai limiti dell'irrappresentabile, un po' come il Faust di Goethe, insomma, sono testi pensati per un teatro più interiore, più della mente e dell'anima, una sorta di scena della mente, del pensiero, più che per lo spazio fisico del palcoscenico, insomma, no? Sparsa le trecce morbide, tipico esempio di accusativo alla greca, accusativo di relazione, qui vorrebbe dire con le morbide trecce sparse sull'affannoso petto, cioè sul petto ansimante, lenta le palme, cioè con le mani lente, questo lento è un aggettivo, un latinismo fortissimo, no? Lentus, nel senso di abbandonato, flessibile, docile, no? Leopardi dice lenta ginestra. Interessante questa piccolissima spia semantica, no? Che in fin dei conti anche la ginestra di Leopardi è una vittima, anche se non c'è nulla di cristiano, casomai c'è una visione stoica in Leopardi, ma dice erorida, altro bellissimo aggettivo, rorido, dalla radice che indica la rugiada, no? Erorida di morte, il bianco aspetto, cioè con un pallore mortale che pervadeva il suo bianco volto, ma rorida di morte, con queste R anche, no? Che con la loro asprezza turbano, fanno da controcanto, da contrappunto alla dolcezza di questa immagine. Giace la pia, pietas, no? È tipicamente virgiliano questo aggettivo, la pietas, ovviamente reinterpretata in chiave cristiana, è la pietas cristiana, la devozione, lo spirito di sacrificio, insomma. Però col tremulo sguardo cercando il cielo. Cercando il cielo con lo sguardo tremulo, tremolante. Tremolo è un aggettivo riferito a sguardo. Interessante notare anche il leopardino, nebuloso e tremulo dal pianto che mi sorgea sul ciglio alle mie luci. Il tuo volto apparia, che travagliosa era mia vita ed è, né cangia stile. Interessante questa immagine dello sguardo tremolante per le lacrime, no? È davvero un'immagine delicata, dolcemente malinconica. Cessa, non cessa, cessa il compianto, no? Imperativo dell'epoca. Cessa il compianto. Un'anime si innalza una preghiera, calata in sulla gelida fronte una man leggiera, sulla pupilla cerula stende l'estremo velo. Notate, cel e poi cerula, c'è anche cercando, insomma, queste cessa, queste c, vabbè, comunque, cessa il compianto, poni fine al tuo lamento, si innalza un'anime, una preghiera, cioè evidentemente il coro delle monache che stanno pregando per la povera Ermengarda. Ecco, Manzoni diceva, il coro è come un cantuccio riservato all'autore la tragedia per esprimere il proprio punto di vista. Detta così sembra piuttosto banale come definizione. Questi cori sono piuttosto come nella tragedia greca, no? Espressione di un punto di vista eterno, si potrebbe dire metastorico, come si diceva, no? Un tempo, cioè, commentano l'azione, ma il punto di vista non è soggettivo, è casomai trascendentale, cioè il coro rappresenta gli eventi, sottolinea, commenta gli eventi, sub specie eternitatis, diciamo, no? Sgombra, dice, calata in sulla gelida fronte, una mano leggera sulla pupilla cerula stende l'estremo velo, cioè, qui c'è il gesto dolcissimo di una monaca che chiude le palpebre della povera Ermengarda. Sgombra o gentil dall'ansia mente i terrestri ardori. Ansia qui è aggettivo, anche questo decisamente latineggiante, un latinismo molto, molto marcato, no? Anxius, letteralmente il respiro spezzato, la stessa etimologia del tedesco angst per indicare l'angoscia, dell'inglese anguish, no? C'è proprio l'idea, anche l'impressione fonica del nodo alla gola, no? Quindi dice, sgombra, lontana o gentile dalla mente angosciata, i terrestri ardori, cioè le tue passioni terrene, leva all'Eterno un candido pensiero d'offerta e muori, quindi innalza all'Eterno, rivolge all'Eterno un puro pensiero di sacrificio, di offerta e muori, fuori della vita il termine del lungo tuo martirio, cioè al di fuori della vita si trova il fine ultimo, il telos. Questo qui termine, proprio in senso preciso del greco telos, cioè confine, ma anche morte, no? Cioè, teleutau, fine, scopo, ma anche limite, ma anche morte, il termine, no? Fuori della vita il termine del lungo tuo martirio. Queste ti, tra l'altro, sottolineano la perentorietà quasi di questo limite, di questo margine, cioè il fine ultimo, lo scopo supremo della tua e anche il significato più autentico, insomma, di tutte le tue sofferenze innocenti si riveleranno solo dopo la morte. Tal della mesta immobile era quaggiuso il fato. Vedete la traccia, il tratto giansenistico, no? Era, nel senso di sarebbe stato, tipico esempio di falso condizionale, no? Tale sarebbe stato quaggiù sulla terra immobile, immutabile, il destino della sventurata, quello di chiedere sempre un oblio, una possibilità di dimenticanza che le sarebbe stato negato, che le sarebbe stata negata, e al Dio dei Santi ascendere santa del suo patir, quindi, e salire, ascendere al Dio dei Santi, cioè alla Beh, anche la Pentecoste inizia, Madre dei Santi, immagine della città suprema. Forse bisognava leggere anche la Pentecoste, ma pazienza. Santa del suo patir, cioè resa santificata santificata insomma dalle proprie atroci sofferenze. Patir proprio nel senso direi di pathos, nel senso più intenso, più autentico del greco. Pathos, pazze, ma la passione di Cristo, ma anche il pathos i pazzemata dell'eroe tragico, no? Sgombra, o gentil, dall'ansia mente. Aspetta, saltate al verso 85. Sgombra, o gentil, dall'ansia mente i terrestri ardori. Leva l'Eterno un candido pensiero d'offerta e muori. Qui ripete quello che ha già detto. Vabbè. Sì. Ecco, si riprende il verso 85. Sgombra, o gentil, dall'ansia mente i terrestri ardori. Leva l'Eterno un candido pensiero d'offerta e muori. Nel suol che dei la tenera tua spoglia ricoprir, altri infelici dormono che il duol consunse. Quindi nel suolo che deve ricoprire la tua tenera spoglia, il tuo tenero corpo, qui c'è forse un'eco quasi catulliana o oraziana, cioè l'idea soprattutto catulliana, cioè del giovane che muore, che è paragonato ad un fiore, no? Tenellus, mi sembra dica Catullo, cioè, questo aggettivo, no? Tenero, che sottolinea proprio la fragilità la tragica fragilità di colui che muore giovane, no? Prima del tempo, insomma. Altre infelici dormono, che il duol consunse, cioè dormono altre donne infelici, consumate dal dolore, spose orbate dal brando, cioè vuol dire spose che la spada ha privato del marito. Orbate dal brando, questa B e questa R, no? E vergini indarno fidanzate, cioè fanciulle fidanzate invano, indarno vuol dire invano, madri che i nati videro trafitti impallidir, cioè madri che videro morire trafitti i figli, te della rea progenie degli oppressori discesa, cui fu prodezza il numero, cui fu ragion l'offesa, e dritto il sangue, gloria il non aver pietà. Bellissima questa espressione, la politica e la storia, le imprese militari sono sempre fatte di oppressione, di violenza, di sopruso. Quindi, tu discesa dalla malvagia stirpe degli oppressori, ai quali il numero, la quantità tenne il posto della prodezza, del coraggio, per i quali l'offesa, no? L'insulto fu motivo di ragione, e il sangue fu diritto, e gloria il non avere pietà. Questi sono tutti paradossi, insomma, praticamente questo popolo, cioè i Longobardi, invasori, che utilizzò la legge del più forte, l'inesorabile legge del più forte, per imporre la propria volontà. Te collocò la provvida sventura in fra gli oppressi. Ecco, questo è un concetto tipico di Manzoni, la provvida sventura. Che cosa vuol dire? No, secondo questa visione cristiana, che può apparire anche consolatoria, forse più una speranza che una argomentazione razionale, ma in fin dei conti anche Kant poneva, no? La giustizia divina e la ricompensa ultraterrena fra i postulati della ragion pratica, cioè in fin dei conti la morale spesso ha bisogno, anche da un punto di vista razionale, di un aggancio, un ancoraggio ultraterreno, trascendente, assoluto, insomma, no? Te collocò la provvida sventura in fra gli oppressi. La provvida sventura cosa vuol dire? Prove d'avventura è una sorta di legge, di nomos, insomma, prevede che gli innocenti debbano spesso soffrire in questa vita per ottenere una ricompensa ultraterrena. Ecco, ma non è soltanto una banale così giustizia commutativa, insomma, una sorta di ricompensa. Queste sono logiche molto rozze. Significa vedere anche negli eventi terreni l'impronta, sforzarsi di vedere anche negli eventi terreni l'impronta di un ordine superiore, di qualcosa di eterno. C'è questo bisogno di trascendere le apparenze, insomma, vedere anche negli eventi umani un senso più profondo, ulteriore, no? Anche un mistero, no? C'è il grande problema del mysterium iniquitatis, no? Il mistero del male. Perché c'è il male? Perché il male colpisce gli innocenti? Insomma, no? È un grande mistero che forse, gran mistero è la vita e non comprende che l'ora estrema, dice proprio l'altro brano che leggeremo ora, cioè la conclusione della Delchi. Allora dice: te collocò la provvida sventura in fra gli oppressi, muori compianta e placida, scendi a dormire con essi. Quindi muori compianta e placida, cioè muori compianta, insomma, commiserata da tutte le nobili anime, e placida, cioè serena, tranquilla. Scendi a dormire con essi, cioè scendi sottoterra a dormire insieme alle altre vittime innocenti. Alle incolpate ceneri nessuno insulterà. Qui si intende, qui incolpate significa senza colpa, cioè nessuno arrecherà offesa alle ceneri, cioè alle spoglie innocenti. Muori, anafora, no? Muori compianta, muori di nuovo, e la faccia esanime si ricomponga in pace. Cioè, muori, dice, il tuo volto senza anima, cioè senza più vita, insomma, assuma un'espressione pacifica, com'era allorché improvvida di un avvenir fallace, lievi pensieri virginei solo pingea. Cioè, com'era allora che improvvida, cioè senza sapere nulla dell'incerto avvenire, dipingeva davanti a sé soltanto leggeri pensieri virginali. Così, dalle squarciate nuvole si svolge il sol cadente, e dietro il monte imporpora il trepido occidente, al pio colonna augurio di più sereno lì. Dice così. Il sole calante si svolge, cioè si libera dalle nuvole squarciate, lacerate, lascia filtrare la propria luce, e dietro il monte colora di rosso il trepido occidente, cioè sarebbe l'orizzonte che aspetta il tramonto, il trepido occidente. Per trepido occidente, sai, il cielo vibrante di luce. L'aggettivo trepido ci suggerisce un'idea di quella luce di beatitudine che trepida nell'anima della trapassata, secondo il commento di Luigi Russo. Al pio colonna augurio di più sereno di. Quindi augurio per il pio colonna, cioè per il contadino devoto, insomma, di un giorno più sereno. Cosa vuol dire? Che il tramonto in realtà è la promessa di un'alba più radiosa. L'immagine ricalca quella dei sepolcri, no? Gli occhi dell'uomo cercano morendo il sole, e tutti l'ultimo sospiro mandano i petti alla fuggente luce. Gli occhi dell'uomo al momento della morte cercano il sole, Solo che nel caso di Foscolo c'è soltanto l'idea della vita, che se ne va e non c'è la speranza e men che meno la certezza della vita ultraterrena, perché Foscolo era sostanzialmente materialista e ateo. Dunque, la conclusione, cioè, praticamente, allora, dov'è? Atto quinto, scena ottava, versi 338 e seguenti. Adelchi, ormai morente, il padre Desiderio, sconfitto prigioniero, c'è questo momento davvero commovente, almeno a mio parere, cioè Carlo Magno che promette ad Adelchi che tratterà Desiderio con il re Desiderio con rispetto, pur continuando a tenerlo prigioniero, come è inevitabile, ma risparmiandogli la vita e risparmiandogli anche le umiliazioni. E Carlo Magno gli promette che così sarà, e Adelchi pronuncia quella battuta, a mio parire, splendida, cioè davvero l'essenza del cristianesimo. Il tuo nemico prega per te morendo. Amate i vostri nemici e fate del bene a chi vi odia. Questa, insomma, è la grande rivoluzione cristiana, il più autentico messaggio cristiano, il grande valore del perdono. Difficilissimo, perché è una cosa assolutamente contro natura, no? Fare del bene a chi ci odia, insomma, come si fa ad essere del tutto immuni dal rancore, dall'odio, ma non è nemmeno forse naturale, ma insomma questo è il grande messaggio del cristianesimo, insomma. Cessa i lamenti, cessa, o Padre, per Dio, non era questo il tempo di morire? Notate questo verbo cessare che si trova anche nel canto, nel coro di Ermengarda, no? Cessa, insomma c'era anche cessa i lamenti, cessa, o Padre, per Dio. Non era questo il tempo di morire? Ma tu che preso vivrai, vissuto nella reggia, ascolta. Dice, cessa i lamenti, dice, poni fine al tuo pianto, Padre, in nome di Dio. Non era forse questo il tempo di morire? Citazione biblica, no? C'è un tempo per nascere e uno per morire. Tempus moriendi, insomma. Ma tu che vivrai prigioniero, dopo essere vissuto nella reggia, ascolta, la vita è un grande mistero e non lo abbraccia, e lo abbraccia soltanto, lo ingloba tutto e lo comprende anche nel senso di, ne rivela il senso, soltanto l'ora estrema, soltanto il momento della morte. Questo comprende, non si riesce a capire se voglia dire capisce o viceversa, abbraccia. Avvolge, ma può avere un significato, può avere entrambi i significati, insomma, soltanto il momento della morte, il momento della morte contiene in sé l'intera vita, perché per il cristiano il momento della morte e del passaggio dal tempo all'eternità racchiude, compendia in sé il significato autentico dell'esistenza, insomma. Ti fu tolto un regno, deh nol pianger mel credi, cioè, concedimi di non compiangere, di non rimpiangere il regno, il potere che hai perduto. Allor che a questa ora tu stesso appresserai, i giocondi si schiereranno al tuo pensiero dinanzi, gli anni in cui re non sarai stato, in cui né una lagrima pur notata in cielo fia contra te, né il nome tuo saravvi con l'imprecar dei tribolati asceso. Cioè, tu un giorno, anzi proprio nel momento della morte, ripenserai a tutti gli anni in cui non sei stato re, e quegli anni ti parranno i migliori, perché se non altro non avrai dovuto infliggere sofferenze ai tuoi sudditi, non avrai dovuto compiere il male. Godi che re non sei, godi che chiusa all'oprarte ogni via, loco a gentile, ad innocente opra non v'è, non resta che far torto o patirlo. Ecco, splendida frase, insomma, rimasta celebre, dice, rallegrati del fatto che non sei più re, rallegrati del fatto che tu ormai non puoi più agire, non vi è loco, cioè non vi è spazio, non vi è possibilità per un'azione innocente, per un'azione che non faccia male a nessuno, insomma, non resta altro che fare il torto o subirlo, ecco. Insomma, no? Questa visione pessimistica della politica proprio, no? Questa è una visione che paradossalmente accomuna Manzoni a Foscolo, no? In fin dei conti, il messaggio sia delle ultime lettere di Jacopo Ortis che dell'opera manzoniana, un po' nel suo complesso, è che non esistono poteri buoni, cioè il potere e comunque comporta una certa dose di oppressione, di sopruso, con la differenza che la visione foscoliana affonda le proprie radici in Hobbes, no? Quindi anche in Machiavelli, prima ancora, quindi in pensatori quanto mai laici, mentre per Manzoni si potrebbe al contrario fare il nome di Sant'Agostino, no? La visione della città terrena che ha Sant'Agostino, contrapposta alla città celeste, no? Città terrena che è il regno, proprio il dominio dell'oppressione, insomma, un'oppressione che è comunque inevitabile. Anche la schiavitù, ad esempio, no? Viene considerata da Sant'Agostino in un'ottica cristiana, proprio una conseguenza del peccato originale, quindi qualcosa di inevitabile, di ineliminabile, visione su cui si potrebbe discutere molto a lungo, perché insomma, una visione della storia anche un po' rassegnata, no? Se vogliamo. Ma dice: una feroce forza, questa feroce forza, notate questa allitterazione che sottolinea l'asprezza di questa forza, una feroce, una crudele forza domina il mondo e si fa chiamare diritto. Ecco, di fatto la forza finisce per avere valore di legge, per dare ragione al più forte. La man degli avi insanguinata seminò l'ingiustizia, i padri l'hanno coltivata col sangue. E ormai la terra altra messe non dà. Cioè, noi Longobardi siamo stati un popolo di invasori, di conquistatori, abbiamo seminato sangue e ora raccogliamo ciò che abbiamo seminato. Questa è una legge. Finché non arriverà un popolo capace di perdonare, non avrà mai fine questa catena inesorabile di vendette, no? E in fin dei conti è vero, insomma, finché non ci sarà un popolo, non mi ricordo chi lo dicesse questo, ma le violenze, le iniquità e le ingiustizie, insomma, compiute dagli uomini e di cui la storia è costellata, avranno fine solo quando arriverà un popolo che avrà il coraggio non tanto di dominare, di conquistare, di sconfiggere, ma il coraggio e la forza di perdonare. Ecco, questo è un grande messaggio cristiano. Anche se forse è una utopia, un modo di ragionare di questo tipo per un antico sarebbe stato assurdo. Sì, il concetto di clemenza c'è anche negli antichi, da Giulio Cesare a Seneca, no? O meglio, viene teorizzato da Cicerone nelle orazioni cesariane di Cicerone, cioè la pro Ligario, pro Marcello e pro Rige Deiotaro, no? Ma la clemenza di Cesare, no? Era qualcosa di profondamente diverso, non aveva un significato religioso, un orizzonte ultraterreno, trascendente, era più una forma di opportunismo politico, se vogliamo. Non infierire sui nemici, anche per evitare che si vendicassero. E non infierire sui nemici, ma cercare di trasformarli in propri alleati. E allora, Dunque, reggere iniqui dolce non è, tu l'hai provato, e forse non deve finire così. Questo felice, cui la morte, cui la mia morte fa più fermo il soglio, cui tutto arride, tutto plaude e serve, questo è un uomo che morrà. Ecco, non è certo bello, dice, reggere uomini iniqui, cioè uomini ingiusti, ma in fin dei conti tutti dobbiamo morire, anche Carlo Magno, quest'uomo a cui ora la mia morte rende il trono, il soglio, no? Più forte, più solido, a cui tutti si sottomettono, a cui tutti rendono omaggio. Comunque anche questo trionfatore, quest'uomo che ora è un trionfatore, è un uomo che morrà, questo è un uomo che morrà, anche lui ha questo destino, questo essere per la morte che non risparmia nemmeno i ricchi, nemmeno i potenti. Ma che io ti perdo, figlio, di ciò chi mi consola? Il Dio che di tutto consola, dice, Dio grande consolatore. E tu, superbo nemico mio, con questo nome adelchi più non chiamarmi, il fui, ma con le tombe empia e villana è nimistà, né tale. Credilo, in cor cape di Carlo, cioè non chiamarmi più nemico, perché è inutile prendersela con le tombe, è cosa impia, proprio nel senso di impius, cioè contraria alla pietas, contraria alla elementare solidarietà umana, e villana, villano invece è un concetto medievale, no? Impia e villana, morte villana, che lo dicevo, sembra sia. Non ricordo se sia Dante o Petrarca, adesso ne so. Morte villana, come hai usato colpire la donna da me amata, no? È nimistà, cioè inimicizia, l'inimicizia con le tombe, cioè a prendersela con i morti, insomma, è una cosa da malvagi e da villani. Né tale in cor cape, cioè questo sentimento, diciamo, non trova spazio nel cuore di Carlo. E amico il mio parlar sarà supplice e schivo d'ogni ricordo ad ambo amaro, e a questo per cui ti prego, e la morente mano ripongo nella tua, dice, per questo parlerò senza rancore, per questo ripongo con fiducia la mia mano morente nella tua, che tanta preda tu lasci in libertà. Questo io non chiedo, che è vano, il veggo il mio pregar saria. Quindi che tu lasci in libertà un prigioniero così importante, questo io non lo chiedo perché sarebbe inutile la mia preghiera, inutile la preghiera di qualunque uomo. Immoto è il senno tuo, immoto era quaggiuso il fato, c'è questa idea della immutabilità e della immobilità di un destino o di una decisione o di una necessità storica. Immoto è il senno tuo, cioè la tua mente, la tua decisione, la tua intenzione è immutabile. Non ci si può fare nulla, anche volendo Carlo non potrebbe, per le leggi della politica, dell'opportunità politica, insomma, liberare il re desiderio. Questa idea di necessità proprio, questa idea secondo cui la malvagità dell'uomo politico in alcuni casi, non diciamo l'insensibilità in questo caso, il cinismo anche dell'uomo politico è qualcosa di inevitabile. Questa visione così pessimistica ha una lontana ascendenza machiavelliana, no? C'è questa idea della necessità, insomma, l'uomo politico che in certa misura è quasi necessitato a compiere il male. Quel che negar non puoi senza essere crudo, io ti domando, se cioè, ti chiedo soltanto ciò che non puoi negare se non vuoi essere crudele. Mite quanto essere può, scevra, cioè priva di insulto, sia la prigionia di questo antico. E quale la imploreresti al padre tuo se il cielo, al dolore di lasciarlo in forza altrui ti destinava? Dice, ti prego, ti chiedo soltanto che la prigionia, insomma, che tu imponi a questo povero vecchio desiderio sia mite per quanto possibile, priva di insulto, cioè priva di oltraggio. E come la imploreresti per tuo padre? se il cielo ti avesse predestinato a lasciarlo nelle mani di qualcun altro. Cioè, insomma, cioè, fai in modo che la prigionia di questo povero mio, di questo mio povero padre sia quale tu la desidereresti se tuo padre fosse al suo posto. Il venerabile capo d'ogni oltraggio difendi, i forti contro i caduti sono molti, la crudele vista non deve sopportare da alcuno che vassallo il tradì. Lui dice, sono molti i violenti, prepotenti contro un povero sconfitto, quindi almeno fai in modo che questo capo vegliardo sia difeso da qualsiasi oltraggio, da qualsiasi offesa. Porta l'avello, cioè porta la tomba, questa lieta certezza. Adelchi il cielo, testimonio mi sia. La tua preghiera è parola di Carlo, cioè porta alla tomba questa certezza, cioè, la tua preghiera è parola di Carlo, cioè ti prometto di fare ciò che mi chiedi, cioè di trattare almeno con dignità e con benevolenza il mio vecchio, il tuo il vecchio padre, insomma. E Adelchi risponde, il tuo nemico prega per te, morendo. Cioè, ma immagine davvero, immagine, espressione davvero splendida, no? Il tuo nemico che prega insomma, Adelchi che prega per il suo nemico nel momento in cui muore, grande esempio della. E qui mi viene in mente per semplice analogia, no? La vicenda di una suora che venne uccisa da una setta satanica, no? Le bestie di Satana, insomma, che ammazzarono di botte questa povera suora. E testimoniarono poi che la suora, mentre moriva sotto le percosse di questa banda, insomma, di pazzi, drogati, sbandati, satanisti, insomma, la suora diceva: vi perdono. Ecco, mentre moriva, diceva a questi che ammazzavano di botte: vi perdono. No? Quindi, fra l'altro, senza motivo, no? Cioè, questi energumeni così. Avevano rapito questa monaca, per fare una specie di sacrificio a Satana, ammazzando una suora. Poi testimoniarono nel processo che di fronte a questi sconosciuti che senza motivo apparente la ammazzavano di botte, questa suora diceva: vi perdono. Vabbè, insomma, quindi può esistere anche se va al di là di ogni logica, di ogni istinto anche, perché il perdono, in fin dei conti, amate i vostri nemici, fate del bene a chi vi odia, pregate per chi vi odia, insomma, è anche un precetto che non è insito nella natura umana, perché anzi, l'uomo, come tutti gli altri animali, insomma, tutti gli altri esseri viventi, ha in sé una componente di aggressività. Quindi questa utopia della non violenza, del perdono, dell'ammitezza, insomma, rimane molto difficile da realizzare, ecco, è un lungo cammino. E dice, impazienti, invito re, chiedo guerrieri e duchi da essere ammessi. Ecco, la scena nona. Carlo, alcun non osi. No, vabbè, questo non importa, la scena nona si può anche cassare. Fermiamoci con questa splendida battuta, no? Il tuo nemico prega per te morendo. No, che è un po' così, questo grande messaggio cristiano che può apparire oggi, proprio per questo, anacronistico, ma che comunque Don Lisander ci lascia bene. A risentirci.